Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ci avviciniamo al giorno, a domani, il giorno più importante per il Consiglio dei Ministri, dove finalmente, nonostante anche oggi la ridda di diverse ipotesi, avremo la certezza su quella che sarà la manovra del governo per la riduzione della pressione fiscale ai lavoratori o alle imprese, quindi riduzione del cuneo sull'IRAP o sull'IRPEF. E dall'altro anche per la soluzione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Il governo ha detto che vuole sanare almeno 50 miliardi di euro di posizioni. Lo dico perché oggi, poco fa, fonti governative hanno confermato, però sono sempre fonti non precisate, che c'è ottimismo nel governo sulla copertura dei 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, le coperture ci sarebbero e l'intervento sarà quasi tutto sull'IRPEF, ripeto, sono fonti interne al governo, tranne qualche intervento selettivo come sgravi per chi assume, quindi interventi a vantaggio delle imprese. Il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando ha anche precisato che la soluzione è vicina anche per quello che riguarda i debiti della pubblica amministrazione. Ne parleremo in apertura, non tanto per fare speculazione, a questo punto aspettiamo 24 ore, domani lo sapremo, ma per far capire con una testimonianza dal vivo che cosa interessi veramente alle imprese, sia sul fronte del carico fiscale che sul fronte dei debiti della pubblica amministrazione. Tra l'altro vi sono anche ipotesi di sanzioni per le regioni che non utilizzano i fondi messi a disposizione dallo Stato, e questo mi sembra più che corretto. Pensate che non sono stati utilizzati 2 miliardi e 200 milioni di euro da Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, sono 2 miliardi e 260 milioni per la precisione, e tutti attribuibili a queste 5 regioni. Anche perché sappiamo che poi quello che succede è che delle volte per riuscire a utilizzarli si inventano, si creano in maniera un po' artigianale, anche pasticciata per non dire fraudolenta in altri casi, delle iniziative per trovare finanziamenti di carattere europeo e coi finanziamenti italiani che non hanno nessun impatto sull'economia, quindi è peggio il taccon del buso, è peggio la pezza del chiodo. Per cui attenzione, perché su questo a mio avviso è importante che le regioni che non riescono a fare dei progetti reali, efficaci, utilizzando i soldi europei, vengano sanzionate, perché deve essere sanzionata la loro classe dirigente in primo luogo. Ancora, pensate che le regioni italiane sono state assegnate complessivamente 13 miliardi di euro, ma al 26 febbraio scorso solo 10 miliardi, quasi 11 miliardi erano stati appunto utilizzati e attraverso dei progetti di carattere europeo. In proporzione alla Sicilia, la regione più reticente. Quella cosa impressionante è che sono le regioni che più avrebbero bisogno di questi soldi, visto che inizieremo anche il nostro viaggio nel sud, stiamo già facendo un viaggio nel GR da lunedì, giovedì Focus Economia e anche venerdì sarà a Napoli, assieme poi anche a Gente Pardo, poi andremo in Puglia, in Sicilia, ma insomma con tutta la buona volontà è difficile spiegare perché la Sicilia è riuscita a non utilizzare neanche un euro del miliardo, quasi 953 milioni, che le è stato assegnato. La Sardegna 159 milioni di euro assegnati, ma nessun euro di trasferimenti. La Campania risorse dallo Stato per 2 miliardi e 400 milioni, di cui quasi un miliardo non utilizzati. La Calabria ha avuto a disposizione 357 milioni, di cui quasi 200 sono rimasti intatti. Il Molise ha usato 55 milioni dei 71 a disposizione. Allora, oltre al danno, la beffa, perché già la situazione è difficile, se le regioni non riescono nemmeno a utilizzare i soldi che lo Stato dà assieme all'Europa, beh, meglio che vadano a casa quegli amministratori, anche perché, e poi andiamo con le notizie in breve, quando c'è da utilizzare i soldi per i rimborsi di spese elettorali e per i costi della politica in senso lato, abbiamo visto, perché 2 anni che raccontiamo scandali vari, che anche queste regioni sono bravissime, cioè i singoli consiglieri regionali sono molto efficienti quando si tratta di spendere i soldi a loro disposizione per l'attività politica, anche in maniera assolutamente inopportuna. Oggi ne raccontiamo un paio che sono quasi luci rosse. Ma se c'è da fare un progetto serio, anche con i loro capi dipartimento, con tutti gli assunti che hanno, un progetto serio, parliamo di decine di migliaia di dipendenti alla regione Sicilia, 22.000 dipendenti, lì non si riescono a utilizzare i soldi. Pensate che la regione Sicilia nemmeno un euro del miliardo che ha ricevuto. 349-238-6666 per i vostri sms. È ovvio che parleremo anche di Unicredit oggi e dei dati arrivati a metà tra l'Ocse, l'Europa e l'Istat, che vedono per quello che riguarda l'Italia la fine della recessione in senso stretto, perché il PIL è tornato positivo dopo 2 anni, per la prima volta in aumento dopo 9 trimestri, il PIL italiano negli ultimi 3 mesi del 2013, più 0,1% rispetto all'anno prima, rispetto al trimestre precedente, meno 0,9% rispetto all'anno precedente. E comunque l'anno scorso si è chiuso con una caduta del PIL italiano di quasi il 2%, dell'1,8%. Entriamo nel 2014 con una frenata, una variazione del PIL acquisito negativa per lo 0,1%. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda invece i titoli in borsa, più 0,60% Milano, anche oggi è tra le piazze migliori, anzi la migliore, perché Parigi perde lo 0,40, Francoforte fa più 0,30, Londra è invariata, l'America meno 0,26%. Nel caso specifico, visto che ne parleremo, Unicredit più 6,90%, parecchie notizie sono arrivate oggi da Unicredit in cui il numero uno Ghizzoni ha escluso fusioni ma solo una crescita organica, e poi ancora l'idea di un fondo con Intesa non è tramontato. Poi ha fatto sapere che dalla rivalutazione della quota di Banca Italia per Unicredit vi sarà un beneficio di 1,4 miliardi. E anche che sta rimborsando alcuni prestiti, restano ancora 21 miliardi da rimborsare alla Banca Centrale Europea, ne ha rimborsati 3. Ancora Monte dei Paschi più 3,21%, Unipol Sai più 3, Salvatore Ferragamo più 2,20, Prismian più 2, Campari più 1,20, A2A più 1%, fronte opposto G-Tech meno 1,60, Jux meno 1,40, Fiat perde 1,40 e anche Mediolanum perde l'1,40%, Pirelli meno 1,30, Intesa San Paolo meno 1,20%. Altre notizie di questa giornata per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale. Vola l'export tedesco a gennaio, 15 miliardi di surplus nelle partite correnti, anzi 16 miliardi e 2 contro i 15 miliardi attesi. La Germania ha collocato sul mercato quasi 1 miliardo oggi di titoli di Stato con una scadenza residuo di 4 anni, ma un tasso negativo, cioè si preferisce dare soldi alla Germania anche se si perdono, perché il tasso è negativo dello 0,49%, però ne ha collocati molti meno rispetto a quanto atteso. Voleva collocare 2,6 miliardi come livello massimo, ha collocato appunto solo 970 milioni. La Spagna ha collocato invece 3,5 miliardi di obbligazioni a un anno, botta un anno, con un tasso che è calato allo 0,54% contro lo 0,61% del mese scorso. Invece dalla Grecia veniamo a sapere che a causa della crisi economica ben 2.650.000 contribuenti greci non riescono a pagare le tasse, stanno annegando nei debiti fiscali, e anche perché le tasse in Grecia, come ricetta della Troika, sono in continuo aumento, una ricetta assolutamente recessiva, non abbiamo nessun problema a dirlo, per cui come è stata recessiva in Italia, se tu aumenti le tasse e non risolvi i problemi in un periodo di recessione economica, amplifichi la recessione economica, non ci vuole un genio a capirlo. Pensate che nel 2013 la cifra di tasse non riscosse ha raggiunto il nuovo record in Grecia di 10 miliardi di euro. Parleremo di Unicredit, vedo molti messaggi, abbiamo uno spazio apposito su Unicredit, sui 1,5 miliardi di su quello che emerge dal piano industriale, perché i conti sono stati affossati da accantonamenti per 13,7 miliardi, la perdita netta è record appunto per quasi 14 miliardi. Per quello che riguarda il piano industriale, il gruppo ha annunciato anche che taglierà 8.500 dipendenti in 3 anni. Vorrei continuare ancora con un paio di notizie di carattere internazionale, perché da un lato la Banca Centrale Europea fa sapere che dagli stress test delle banche, quindi restiamo in tema bancario, saranno possibili aumenti, o meglio potrebbero essere chiesti aumenti di capitale, fa pari a una cifra abbastanza consistente, perché stanno esaminando asset per 3.720 miliardi di euro, quindi asset che coprono il 58% degli attivi che vengono considerati per i rischi di queste 128 banche. Ancora il vicepresidente della BCE Victor Constanzio ha detto che il messaggio di Draghi sui tassi non è stato colto in pieno, i tassi resteranno fermi o caleranno anche in caso di miglioramento della ripresa economica. La pensa allo stesso modo il capo economista dell'OCSE Rintaro Tamaki, il quale ha detto la Banca Centrale Europea mantenga o addirittura aumenti lo stimolo monetario, dopo aver ricordato che ci sono miglioramenti nelle maggiori economie, ma restano tutti i rischi. L'area euro migliora più lentamente delle altre grandi aree economiche, la disoccupazione resta altissima con un rischio forte di deflazione nell'intera area euro. C'è un leggero miglioramento sulla prospettiva del PIL italiano, che dovrebbe crescere dello 0,7% nel primo trimestre di quest'anno, ma rallentare nel secondo trimestre più 0,1%. Questo appunto nel giorno in cui l'Istat fa sapere che nell'ultimo trimestre il PIL è tornato positivo. Volete sapere, lo spread è a 174 punti base, il nostro spread, e quindi ancora un po' sopra quello spagnolo. Per quello che riguarda poi i dati italiani che arrivano dal mondo del commercio, oggi la Confesercenti attraverso il suo osservatorio fa sapere che tra gennaio e febbraio vi sono state 29.000 cessazioni, con un saldo negativo tra nuove attività e attività chiuse pari a 17.700 attività. E tra l'altro dice la Confesercenti che l'avvio del 2014 è stato il peggiore da 40 anni per il mondo del commercio, del turismo e dell'intermediazione commerciale, e quindi le aperture nei tre comparti sono state appena 11.400, il dato più basso bimestre su bimestre da 40 anni a questa parte. E visto che ci avviciniamo al tema, sempre la Confartigianato in questo caso fa notare come nel 2013 si siano persi 1.300 posti di lavoro al giorno e che per le piccole e medie imprese il cuneo fiscale costa 78 miliardi e mezzo di differenza appunto. E veniamo al tema del cuneo fiscale, perché su questo è già intervenuto oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in attesa di sapere, ripeto, al di là delle indiscrezioni delle fonti, quello che capiterà domani. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, intanto continua, diciamo, chiamiamola dialettica tra il Presidente del Consiglio e le parti sociali. Ieri i sindacati, oggi la Confindustria. Perché? Perché oggi Renzi ha detto, parlando all'Assemblea dei Deputati del PD, domani arriverà per la prima volta, sarà messa nelle tasche degli italiani una significativa quantità di denaro. E poi ha continuato, penultimatum di Squinzi sull'IRAP e l'eventualità di uno sciopero della Camusso, ce ne faremo una ragione. Questo è quello che avrebbe detto, secondo alcune persone presenti all'assemblea del PD. Ha risposto a stretto giro il presidente Confindustria Squinzi, dicendo: lui se ne farà una ragione, noi però di ragione ne abbiamo una sola, che è il bene del nostro paese. Noi abbiamo una ragione sola, che abbiamo in mente precisa, ed è il bene del nostro paese, la capacità di ritrovare la ripresa, la capacità di ritrovare a creare lavoro, che è quello di cui abbiamo assolutamente bisogno. Non dimentichiamo che in questo paese ci sono 3 milioni e mezzo di disoccupati e c'è il 40% di disoccupazione giovanile. Noi cerchiamo di fare delle proposte che vadano nella direzione di affrontare questo problema. E adesso arriviamo invece appunto alle cose che sono trapelate. Allora, intanto l'Istat oggi ci ha detto che nel 2012, il dato sul 2012, il cuneo fiscale rappresenta quasi il 50% del costo del lavoro. Praticamente i lavoratori in media arrivano a 16.100 euro contro un costo del lavoro che hanno questi stessi lavoratori per le imprese di 31.700 euro. Ancora, sempre l'Istat ci segnala che tra il 2000 e il 2012 la pressione fiscale è aumentata nei vari paesi dell'Unione Europea di solo lo 0,5%, da noi di 3 punti percentuali. Si è arrivati praticamente al 44% nel 2012, è leggermente scesa al 43,8% nel 2013, e sarà un caso, ma laddove aumenta la pressione fiscale cala il potere d'acquisto delle famiglie. Ha perso il 5% tra IMU e contributi il potere delle famiglie come potere d'acquisto complessivo, che è di intensità eccezionale, lo dice la stessa Istat, anche perché il reddito disponibile grazie alle tasse nuove è calato del 2%. Io vorrei, in attesa del Consiglio dei Ministri, cercare di capire che cosa interessa realmente agli imprenditori, e volutamente parliamo con piccoli e medi imprenditori, perché a mio avviso c'è molta confusione anche sull'impatto del cuneo fiscale da un lato e sui costi che rendono bassa la nostra produttività, e dall'altro anche su quello che sarà l'impatto dei 50 miliardi che il governo vuole che vengano pagati alle imprese che li aspettano da anni dalla pubblica amministrazione. Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria Venezia, che ha delega al credito in Confindustria Venezia, buonasera. Buonasera. Allora, mi dica una cosa, adesso qui c'è in atto anche una dialettica, non dico scontro, ma tra Confindustria, i sindacati. Matteo Renzi, non voglio entrare sul tema politico, vorrei però capire una cosa. Cioè, ho appena letto i dati sul cuneo fiscale, quanto pesa in busta paga. Allora, noi spesso ci concentriamo sulle tasse, perché sono queste poi che assottigliano la busta paga del dipendente, operaio, impiegato che sia, e fanno crollare i consumi in questo paese, il potere d'acquisto. I dati li ho appena letti. Ma in realtà sono l'unico costo che rende poco produttiva, diciamo, il lavoro in Italia? Perché non vorrei su questo creare degli equivoci, prego. Guardi, le rispondo immediatamente. Un dipendente ogni mese accumula un giorno di ferie e un giorno di permessi obbligatori. Se non chiede il permesso, in quanto obbligatorio, inevitabilmente lo accumula e vanta un diritto di natura economica. Ciò significa, in termini di produttività, che su 22 giorni mensili un dipendente costa all'azienda come costo non produttivo il 5%. Pertanto io dico, se i 10 miliardi ci sono per abbattere il cuneo fiscale, questa somma così importante, e non è sicuramente sufficiente ma è un buon primo passo, potrebbe essere destinata a tutti i dipendenti. a condizione che dall'altra parte, sì, le parti sociali insieme al governo si mettono d'accordo che i permessi non sono più obbligatori ma facoltativi, e in quanto facoltativi possono essere utilizzati dal dipendente quando ne ha strettamente bisogno. Significherebbe recuperare un 5% di costo e aumentare di un 5% la produttività di ogni singolo collaboratore. Quindi attenzione, perché allora, da un lato oggi per esempio su Sole 24 Ore il direttore Roberto Napoletano dice: se volete avere un effetto, un'efficacia forte e non inseguire solo, cito testualmente, effimeri consensi elettorali, destinate 10 miliardi recuperati con una seria spending review interamente alla riduzione dell'IRAP, perché il ragionamento che già facevamo ieri è: attenzione, se tu riduci l'IRAP permetti alle imprese di almeno di mantenere l'occupazione che hanno. Però oltre a questo, quindi oltre al dibattito IRAP-IRPEF, anche perché mi sembra che oggi le fonti invece da Palazzo Chigi vadano in direzione opposta, qui ci sono degli altri costi impropri, quindi se ho ben capito il suo ragionamento, voi avete un costo del 5% impropri, nel senso che non sono produttivi, non che siano illegittimi, ci mancherebbe, però un costo del 5% per quelli che sono i permessi. Lei mi dice: io potrei anche accettare che la riduzione del cuneo vada tutta sull'IRPEF, però a patto di una rinegoziazione sui permessi, per esempio portandoli non più da obbligatori a facoltativi, ho capito bene? Assolutamente sì, significherebbe per le mie aziende e per molte altre aziende recuperare il 5% di costo e aumentare il 5% la produttività, perciò sarebbe una doppia manovra, in attacco e in difesa perché si risparmia un costo, in attacco perché si recupera con la produttività. Ecco, su questo poi immagino che i sindacati invece abbiano qualcosa da dire, legittimamente, però anche lì è difficile accontentare tutti. Mi dica una cosa, visto che lei rappresenta un tessuto di imprese piccole e medie e in un'area come il Nord-Est, che ce lo diceva proprio l'Istat la settimana scorsa, ha sofferto più di altre in termini appunto di calo di produttività, per quello che riguarda invece il recupero dei crediti che vantate, e ce ne sono molte anche nel Veneto, nei confronti della pubblica amministrazione, qui si parla di 50 miliardi, oggi Morando, il vice ministro Morando, ha detto la soluzione è vicina, lo schema sarà quello già adottato in passato, ma con un aspetto più innovativo, è confermato un ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Da quello che abbiamo capito, sostanzialmente la Cassa Depositi e Prestiti si farà garante nei confronti delle banche del fatto che la pubblica amministrazione in 10 anni darà quei soldi alla CDP, ma questo permette poi all'imprenditore di andare in banca con la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, secondo lei questo avrà un impatto volano, un impatto forte sul tessuto produttivo? Guardi, mi faccia dire due cose, sarà un po' più lungo, però vale la pena approfondire. Allora, dal punto di vista dell'esternazione del Presidente del Consiglio, mi sembrava di aver capito che inizialmente aveva detto che tutti i debiti della pubblica amministrazione venivano pagati alle piccole e medie imprese, invece adesso sono 50 miliardi. Fatto sta, dà un volano, però dobbiamo considerare che darà un volano minimo, perché la maggior parte dei crediti che le piccole e medie imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione sono stati già scontati e appoggiati in banca. Pertanto, dal punto di vista del recupero della liquidità delle aziende, non prevedo che ci sarà un effetto così trascinante. Bisogna d'altresì dire che per quanto riguarda noi, dato che facciamo parte della Comunità Europea e sottostiamo alle regole di Basilea 2 e di Basilea 3, inevitabilmente dobbiamo iniziare a regolamentare come tutti gli altri paesi in maniera forte, chiara e inequivocabile le modalità di pagamento, perché le modalità di pagamento poi alla fine incidono anche sulla performance economica che ogni singola azienda ha. Allora facciamo una cosa, Marinese, adesso io ho il metodo e la pubblicità, dopodiché però vorrei capire, quando lei parla delle modalità di pagamento, perché c'è una direttiva europea che noi non abbiamo rispettato per ora, che porta a 60 giorni i pagamenti, ma riguarda anche i pagamenti tra privati, perché noi parliamo sempre della pubblica amministrazione, perché lì lo scandalo è quasi etico dal punto di vista dei diritti di cittadinanza, cioè tu mi chiedi le tasse con puntualità e poi mi paghi a 2-3 anni, e questo è inaccettabile. Però c'è un problema grosso, come ricordavano altri suoi colleghi in queste settimane, anche tra privati, per cui si blocca la catena per esempio con i fornitori, con i clienti finali. Vorrei che lei ci raccontasse questo dopo la pubblicità e ci dicesse tre cose che potrebbero avere un impatto immediato sulle imprese che lei rappresenta, in un tessuto di imprese che è molto esposto alla concorrenza come quello del Nord-Est. Oh. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcune risposte però a quanto sostenuto poco fa dal vicepresidente Confindustria Venezia. Perché dice, ma come volete levare i permessi? Allora, bisogna capire se sono permessi o sono ferie. Nessuno vuole toccare le ferie in nessuna parte del mondo occidentale. Il ragionamento che è stato fatto è: preferisco che tu riduca l'IRPEF, che tutti i soldi vadano all'IRPEF, purché tu mi permetta di avere dei permessi non più obbligatori, che diventano ferie di fatto, ma permessi quando servono. Nessuno vuole eliminare l'istituto dei permessi, in questo momento scattano in automatico. In realtà qui il tema più complesso è un altro: molti di voi credono che la produttività, ci sono anche alcuni economisti, esponenti politici che non hanno capito, a mio avviso, una mazza sulla produttività, perché parlate con un economista e chiedetegli se la produttività dipende dal costo del lavoro e basta, in busta paga. Quando si dice bisogna concorrere, ci farete fare la concorrenza con la Polonia, no, o con la Cina, la produttività non è legata al costo del lavoro in senso stretto, ma alle inefficienze sì. Allora, vogliamo andare a ragionare sui permessi sindacali? Si può almeno affrontare il tema, non dico, ma almeno i permessi sindacali, i permessi in generale, sono più quelli che incidono sulla produttività che non, oltre che le inefficienze della burocrazia, le lungaggini per avere un'autorizzazione, il tema anche chiaramente delle infrastrutture, perché se poi tu aumenti la produttività interna e poi il camion si blocca fuori dalla fabbrica, la perdi complessivamente. Ma attenzione, che continuare a ragionare come se la produttività fosse legata solo al costo reale del dipendente, non agli oneri poi fiscali, è sbagliato. Per cui la concorrenza non è con l'operaio polacco, con l'operaio turco, con l'operaio cinese, perché lì è chiaro che la vinceranno sempre i paesi a minor costo della vita. La produttività è un'altra cosa, il costo del lavoro non incide su questo, contrariamente alle battaglie ideologiche che si sono fatte anche di retroguardia su questo. Altra cosa è dire: l'impianto che noi abbiamo di permessi si può reggere in questo momento oppure no? Anche perché in gioco c'è la tenuta stessa del sistema di impresa. Cioè, se un'impresa ha un costo del 5% da questo, cosa fa? Riduce gli occupati o chiede magari di rivedere i permessi? Pongo la domanda. Marinesi, mi dica una cosa. Allora, i pagamenti della pubblica amministrazione sono un tema, e sono un tema anche etico, però qui c'è un problema anche di recepire le direttive sui pagamenti tra privati. E se poi, visto che la sua proposta ha suscitato molte polemiche tra gli ascoltatori, mi dice tre cose che farebbe per migliorare la produttività e quindi la capacità di competere delle nostre imprese. Prego. Allora, guardi, per quanto riguarda i debiti, i crediti, è un problema che riguarda la pubblica amministrazione, ma riguarda anche i privati, che poi alla fine il rispetto dei tempi di pagamento in 60 giorni e non in 120, in 150, quali sono quelli in Italia, portano dei vantaggi, essenzialmente tre vantaggi, li dirò in maniera telegrafica. Il primo vantaggio inevitabilmente è un aspetto proprio puramente economico. Il secondo grande vantaggio è che le aziende sarebbero portate a non impiegare il proprio debito nei confronti delle banche nel breve termine, perché si finanzierebbero col breve, dato che noi in Italia utilizziamo il breve termine per finanziarci. Questo significherebbe aumentare il rating delle aziende, perché il rating delle aziende secondo Basilea 2 si ottiene, si migliora non solo in base alla patrimonializzazione, ma anche alla percentuale di debiti e crediti sul fatturato. Il terzo grande vantaggio è che le banche, così come accade in Germania o anche in altri paesi della Comunità Europea, non impiegherebbero più il denaro nel breve, perciò non finanzierebbero più le aziende per scontarsi le fatture dei propri clienti, ma sarebbero inevitabilmente obbligate a impiegare il denaro in investimenti medio-lungo termine. Pertanto questo aumenterebbe un circolo virtuoso per effetto del quale anche gli investimenti dei privati si sbloccherebbero e le banche sono molto più predisposte nel dare il credito. Ecco, quindi se ho ben capito, questo è un punto importante, perché quando parliamo anche del ritardo nei pagamenti tra privati, questo si lega, come lei ricordava, direttamente anche al tema del credito bancario. Perché lo dico? Perché le banche rispondono: ma io non posso concedere credito a un'impresa che mi chiede di pagare, diciamo banalmente, i fornitori o pagare nel breve. Poi voglio concedere credito a un'impresa per progetti di medio e lungo termine, quindi progetti, tra virgolette, di visione, non di galleggiamento. E lei dice: se i tempi scendessero a quelli normali in Europa, a 60 giorni, il cash flow, cioè la liquidità dell'impresa vi sarebbe, l'impresa andrebbe in banca a chiedere altro tipo di prestiti con un rating più alto, perché è chiaro che se è un investimento e una pianificazione di investimenti il rating è più alto, e le banche, sintetizzo in maniera un po' estrema, non avrebbero più la scusa per dire mi chiedete solo i prestiti a breve. Cioè avrebbero una scusa in meno, quindi dovrebbero prestare i soldi per investimenti a lungo termine. Quindi faresti, cioè risolveresti in parte il problema poi dell'asfissia del credito bancario, perché le banche hanno anche ragione quando dicono non ti posso solo dare i soldi per pagare gli stipendi perché il fornitore non ti ha pagato, o per pagare il fornitore perché l'altro cliente non ti ha ancora pagato, perché questo è un circolante, quella banca non vuole esporsi, oltre che avere un rating molto molto basso su questo, se ho ben capito. Mi dà altre due ricette? Altre due ricette essenziali. Allora, volevo rispondere per i permessi. Il permesso in italiano significa che qualcuno chiede e qualcun altro lo dà. Non sono le ferie, come giustamente lei prima poc'anzi ricordava, però voglio essere qui rafforzativo, perché le ferie sono un diritto acquisito e si devono fare, bisogna riposarsi per lavorare bene. Ma il permesso di fatto è un costo non produttivo, e il costo non produttivo l'imprenditore lo paga tanto, e alla fine lo paga anche il lavoratore, perché di fatto si trova di fronte a un'esigenza di produttività e non riesce a rispondere, perché dal punto di vista imprenditoriale l'imprenditore gli conviene farlo fare il permesso. E non è un diritto che si toglie, è un diritto che si lascia, ma si rende facoltativo, dando significato al senso della parola permesso. Sì, gli ascoltatori temono che poi in realtà se fosse facoltativo non verrebbe mai dato. Guardi, io non conosco nessun imprenditore il cui magari dipendente, collaboratore, deve andare a fare una visita medica o un'esigenza contingente a prescindere permessi che ha accumulato meno e gli dice di no. Non ne conosco uno. Ma guarda, io personalmente sono abbastanza d'accordo. Allora, diciamo, evitiamo le ipocrisie, a me dispiace se poi i sindacati si arrabbiano, però... Se è un permesso, uno lo chiede, anche in italiano si dice chiedere permesso. Se invece è un obbligo, allora trasformate i permessi in ferie, decidiamo che tanto a questo punto le ferie aumentano di 12-15 giorni l'anno. Mi sembrerebbe, perché di fatto lo sono, ma lo vedo anch'io in busta paga, i permessi sono delle ferie che si chiamano in altro modo, siccome li devi utilizzare a un certo momento usi quelli invece che usare le ferie in molti casi, cioè i giorni acquisiti, per cui è un'ipocrisia. Non c'è nulla di facoltativo nei permessi, è un obbligo, bene, diventano monte ferie. Allora è come se io invece che avere 24 giorni di ferie in un anno ne avessi 36. Decidiamo che diventano tutte quante ferie, va bene anche così, almeno leviamo l'ipocrisia. Poi spieghiamo al resto del mondo che con la crisi economica più forte del 29, con un paese che ha difficoltà produttive, noi decidiamo che possiamo permetterci 12 giorni di ferie in più, ma almeno leviamo l'ipocrisia, perché se no li chiami permessi ma vengono utilizzati come ferie. Io sono anche d'accordo che sono poche le imprese, a parte che i certificati medici esistono e non vengono meno, che negherebbero la cosa, però attenzione, uno deve anche decidere, mantengo la produttività, aumento la produttività, quindi conservo i posti di lavoro da un lato, e dall'altro però posso anche rinunciare a qualcosa. Io conosco molti dipendenti che ci scrivono che preferirebbero, pur di non rischiare la cassa integrazione, rinunciare ai permessi, perché poi quando vai in cassa integrazione lì non hai più problemi di permessi, anzi. Mi dice le altre due risposte? Le proposte? Altre due risposte, una proposta anche questa a costo zero: eliminare la legge sui concordati preventivi. È una legge che mette sfiducia tra privati. Oggi tutte le aziende che forniscono un bene o un servizio a un terzo, a un privato, inevitabilmente hanno continuamente la spada di Damocle, che un'azienda con una semplice lettera può congelare tutti i propri debiti. Questa è una legge sbagliata, bisogna rivederla immediatamente, perché toglie la fiducia nelle negoziazioni private. Bene, alcune possono sembrare cose minori, in realtà era per uscire anche dalla, questo è un paese che di Guelfi, Ghibellini, che si innamora dei derby, dal semplice IRAP o IRPEF, ci sono tante altre cose che possono aumentare, varie le proposte, la produttività, accettiamo volentieri anche le proposte che arrivano dal mondo sindacale, basta che siano per aumentare la produttività, non... se poi mi dite che sono diritti acquisiti e non bisogna toccare i diritti acquisiti, va bene, ma allora non lamentiamoci di dove siamo, perché non si può chiedere un sacrificio solo e sempre agli altri. Grazie al vicepresidente Confindustria Venezia Vincenzo Marinese. Il traffico, poi i conti di Unicredit, a proposito, qui ci sono 8.500 esuberi, entro il 2018 e una perdita non male per il primo o secondo, non si capisce mai, gruppo bancario italiano. Allora, i conti di Unicredit, dicevo 8.500 dipendenti in meno entro il 2018, attenzione che sono 1.500 in Germania già concordati, 900 in Austria e la fetta più grossa purtroppo in Italia, 5.700 dipendenti in meno in Italia. E questo per quello che riguarda la nota più dolente, visto che parliamo di posti di lavoro. Per il resto, perdita netta record di 14 miliardi, le stime precedenti parlavano di un utile netto di 400 milioni dopo gli 860 milioni del 2012, però qui i conti sono stati affossati dagli accantonamenti per 13 miliardi e 7. E allora Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Marco, l'accantonamento vuol dire che io metto dei soldi in cascina perché penso che ne avrò bisogno, no? Detto in maniera... E quindi accantono delle risorse che devo mettere a bilancio, ecco perché se accantoni 13 miliardi e 7 poi ti arriva una perdita netta di 14 miliardi praticamente, perché ne ho bisogno. Da che cosa deriva questa enorme ammontare di accantonamenti, visto che sono pari quasi a una manovra finanziaria? Sì, beh, questa grande cifra deriva dalla qualità del credito, cioè dal fatto che i crediti in sofferenza in Italia e quindi anche nei conti di Unicredit continuano a essere molto alti. Di conseguenza, come dicevi tu, si accantona per poter essere in grado appunto di coprire eventuali perdite nel caso in cui i crediti non tornassero indietro. A ben vedere però nel caso di Unicredit abbiamo sia grossi accantonamenti appunto sui crediti ma anche forti svalutazioni sugli avviamenti. In particolare Unicredit ha rivisto al ribasso il valore, diciamo così, dell'avviamento del goodwill relativo a quasi tutte le aree in cui opera, in particolare dell'Italia. Sommando l'uno e l'altro si arriva a questo risultato negativo che fa impressione, che sono questi 14 miliardi che, come ricordavi, gli analisti non prevedevano. Ancora per quello che riguarda i dati oggi diffusi, ricavi ammontati a 24 miliardi, meno 4%, prevede però un ritorno all'utile per 2 miliardi di euro nei crediti, se ho ben capito. Sì, esatto, prevede un ritorno all'utile nel 2014 e bisogna dire che anche nel 2013 comunque il dividendo c'è, nel senso che agli azionisti verrà proposto uno scrip dividend di 0,1 euro per azione. Scrip dividend di fatto è la possibilità di scegliere tra un dividendo in azioni che conviene dal punto di vista fiscale oppure il versamento, come dire, cash. Questo tra l'altro ha anche impattato positivamente sulla borsa, perché mentre Unicredit annunciava questi conti come dire dal rosso molto intenso, il titolo ha guadagnato il 6%. Sì, e questo guadagno vogliamo commentarlo, perché più 6,21% è il miglior titolo del listino oggi tra quelle maggiori capitalizzazioni. Fa impressione, come dicevamo, perché effettivamente tu annunci dei conti decisamente peggiori del previsto e il titolo sale. Diciamo che le ragioni sono essenzialmente due. La prima è che è stato scongiurato l'aumento di capitale. Non era previsto, però come dire, non si può mai escludere nulla nella vita e quindi evidentemente qualcuno lo temeva. Non c'è aumento di capitale, questa è una buona notizia per gli azionisti vecchi e nuovi, e quindi il titolo è salito. E poi l'altra cosa che purtroppo è ricorrente, non è come dire una bella cosa, però quando le banche in particolare, ma non soltanto, provano dei piani industriali pluriennali con molti tagli sul personale, il titolo sale. Come tu dicevi prima, ci sono dei tagli, 8.000 risorse in meno in 4 anni, e probabilmente anche questo ha avuto un effetto positivo sul titolo. Tra l'altro purtroppo non è la prima volta che vediamo che la borsa premia un gruppo che annuncia esuberi. Il ragionamento è molto cinico, e cioè se gli esuberi portano un miglioramento dei conti e del perimetro, diciamo, del bilancio, la borsa ti premia più 6,21%. Qual è la cosa che più ti ha sorpreso di questi conti? Perché insomma Ghizzoni poi ha detto non pensiamo a fusioni ma solo a una crescita organica. Non ho capito se abbia accennato o no alla bad bank, Marco. Due cose. La prima è che effettivamente questa manovra, queste pulizie veramente straordinarie, inattese quanto volumi, sono dettate dall'inversione del ciclo, che comunque è del ciclo economico che Unicredit prevede. In sostanza il discorso della banca è: abbiamo toccato il fondo, stiamo per ripartire, vogliamo farlo nelle condizioni migliori, per cui puliamo tutto quello che c'è da pulire. Questo, come dire, è comunque un auspicio. Loro hanno tenuto a sottolineare che le previsioni macroeconomiche su cui hanno basato il piano industriale sono comunque, come dire, non le più ottimistiche, dunque hanno fatto professione di realismo, però certo è comunque una sfida impegnativa. La seconda cosa che secondo me merita è proprio quello che dicevi tu, la bad bank. In sostanza, tra le azioni del piano è previsto l'isolamento, lo scorporamento di 67 miliardi di crediti in larga parte deteriorati sull'Italia, che di fatto sono stati isolati dal resto dei crediti, e tra gli obiettivi del piano c'è quello di smaltirli quasi completamente. In che modo? O vendendoli, cedendoli, oppure cercando di salvarli là dove possibile. Anche questa è una cifra che fa veramente impressione: 67 miliardi di crediti deteriorati o quasi in Italia è davvero una grossa cifra. Minuti e torna Focus Economia. Adesso ci occupiamo di borsa e poi dei dati economici. Devo dare qualche risposta però ai vari sms che, come immaginabile, dopo la proposta del vicepresidente Confindustria Venezia, insomma, ci sono anche sms molto critici. Allora, attenzione, nessuno ha detto di eliminare i permessi, ci mancherebbe. È stato detto semplicemente che ci sono altre cause della bassa produttività, per cui un imprenditore può essere disponibile ad avere, e questa è la proposta, una riduzione dell'IRPEF, che tutto il cuneo fiscale vada a ridurre l'IRPEF, quindi 10 miliardi vengono messi tutti in busta paga al lavoratore, a patto che vi sia la riduzione di altre inefficienze. Allora, se, questa è la stima che ha fatto Marinese, i permessi pesano il 5%, si può pensare di non renderli obbligatori, questa è la proposta, ma facoltativi, cioè quando uno ne ha bisogno. Nessuno sta toccando i diritti acquisiti. Faccio presente una cosa, che abbiamo fatto intere campagne sugli stipendi e le remunerazioni dei manager, sui bonus ingiustificati, sugli sprechi della pubblica amministrazione, sui costi della politica. Allora, si può pensare a uno scambio per cui tu hai più soldi in busta paga, ma rinunci non ai permessi, ma ai permessi automatici, quelli che ti finiscono in busta paga automaticamente, che tu ne abbia bisogno o no, e invece utilizzi solo i permessi di cui hai bisogno? Primo aspetto, domanda. Secondo, mi scrivono anche molti ascoltatori che, insomma, sappiamo come funziona con le malattie, ci sono tantissimi dipendenti che hanno bisogno dei permessi di malattia, però ci sono anche, per esempio, mi scrivono alcuni ascoltatori che i loro colleghi che hanno permessi sindacali li prendono sempre il sabato. Allora, io non ho, difficilmente ho visto una rappresentanza sindacale di base riunirsi il sabato, però allora, il punto è un altro, è rimodulare quello che è, diciamo, la produttività. Non va necessariamente a svantaggio del dipendente, perché, ripeto, tu potresti avere più soldi in busta paga, eliminare qualche inefficienza. Alla fine dobbiamo renderci conto che tutto questo ha un unico obiettivo: mantenere la produzione industriale che c'è e possibilmente aumentarla, a meno che non mi diciate che tutto va bene così e che voglio dire, si può continuare con un tasso di disoccupazione che è già record. A me sembra strano che la polemica scatti sui permessi da rendere facoltativi e non più obbligatori, anche se non ne hai bisogno. Cioè, io in busta paga ricevo ogni mese un ammontare di permessi, maturo un ammontare di permessi che non ho chiesto. Poi, quando ne ho bisogno, presenti un certificato, esponi la tua richiesta, ma li maturo in automatico. Allora, questo è un costo per un'azienda. Personalmente preferirei rinunciare a qualcuno di questi permessi e prenderli solo quando ho un certificato medico, quindi quelli che mi servono, e avere più soldi in busta paga. Personalmente, è una mia totalmente personale opinione. Però ragioniamone, perché io penso che invece lo scambio tra riduzione delle tasse in busta paga e quindi più soldi per il dipendente, magari rinunciando a qualcosa. Poi sui permessi sindacali non facciamo sempre le vergini, però ci sono permessi sindacali importantissimi e ci sono permessi sindacali inefficienti. Sulle malattie ci sono casi gravissimi dove il lavoratore deve essere tutelato, però sappiamo anche, come scrivono alcuni ascoltatori, che delle volte i medici, qui c'è tutto un tema da aprire sulle medici di base, ti dicono: insomma, dimmi quanti giorni vuoi stare a casa, ok? Allora, se vogliamo mantenere lo spirito di questo programma, che di non essere ipocrita, se poi vogliamo raccontare che i medici di base danno solo i giorni necessari e che diciamo non c'è nessun abuso, raccontiamo un altro paese. io ripeto, ritengo che sia più importante aumentare la busta paga dei lavoratori, quindi lasciare più soldi netti in busta paga, e piuttosto andiamo di caso in caso, vediamo se il lavoratore gli dici rinuncia al permesso ma hai più soldi, il permesso automatico, poi quando stai male, si chiama malattia, non è un permesso, se hai una visita medica porti il certificato ed è un permesso assolutamente riconosciuto e via così. Vedo che altri sostengono che sarebbe interessante fare in modo che i permessi non siano che uno rinunci allo stipendio quando è in permesso, mi sembra troppo, perché se il permesso è vero è giusto che venga, che uno ne usufruisca. Altri sostengono facciamo pagare il 50%, diamo una copertura del permesso solo al 50% in busta paga, anche questo è sbagliato. Se il permesso uno lo chiede e ne ha bisogno, è giusto che sia, a mio avviso, retribuito in busta paga, come appunto un permesso, come la festività, come la malattia. Altra cosa è dire che in automatico io maturo tutti i mesi, e lo fa anche chi vi parla per contratto nazionale, dei permessi che non ho chiesto. Questa è l'unica domanda che mi pongo. E datemeli in busta paga tutta la vita. Se non li ho chiesti, non me ne faccio nulla, perché se è un permesso che non ho chiesto, non lo uso. Anche perché non posso usarlo, perché non è che tutti possono assentarsi dal lavoro quando vogliono, e quindi io non ho un vantaggio, nel senso che ho un permesso che non uso, ho un costo in più per l'azienda, preferirei vedere quel permesso trasformato in busta paga o comunque un'operazione sul cuneo fiscale e rinuncio magari a qualche permesso in più, no? Vabbè, Andrea Fontana, Radio Cori, sulle 24 ore, la borsa. Buonasera. Buonasera, al di là di UniCredit di cui abbiamo appena parlato, bene, oggi anche UniPolsai più 3% e Monte dei Paschi più 2,5% che domani presenta i conti. Oggi però su Monte dei Paschi una notizia dalla fondazione è arrivata. Beh sì, la fondazione ha alleggerito la propria quota, anche se è dell'1,5%, ma scendendo sotto la soglia sensibile del 30%, e un azionista importante come la famiglia Leotti ha ridotto dal 4% all'1%, quindi parziale spiegazione dei movimenti incontrollati della scorsa settimana, e titolo che si muove più o meno sulla soglia dei valori a cui la fondazione ha venduto, cioè 0,22, il mercato si attende altre manovre naturalmente. Ma adesso l'attenzione è focalizzata sui conti e sulle indicazioni, soprattutto in termini di rettifiche e di accantonamenti, visto quello che è successo anche UniCredit, che saranno resi note con i conti in approvazione in questo momento, che saranno veicolati al mercato domani mattina prima dell'apertura della borsa. Allora, per quello che riguarda altri titoli, sottolineo Ferragamo più 1,30. Ferragamo, perché anche qui dovrebbero arrivare i conti, eh? Sì. Ferragamo ha pubblicato i conti da qualche minuto, nell'attesa, naturalmente il mercato non li conosceva, ma la giornata è stata positiva per il settore, per buona parte del settore del lusso. Ferragamo ha chiuso i conti con un utile in crescita del 43% a 150 milioni di euro per il 2013, distribuirà un dividendo di 40 centesimi per azione. Positiva appunto Ferragamo più 1,3% nel settore del lusso, ha dato i conti anche Brunello Cucinelli, conti sopra le attese, il titolo ha guadagnato il 5%. Ancora per quello che riguarda altri titoli, A2A continua la sua corsa, perché anche qui più 10% in una settimana, più 1% oggi è un euro per azione. Sì, oggi è stata una giornata particolarmente positiva per il settore dei servizi di pubblica utilità, non solo in Italia ma in tutta Europa. A2A sta continuando la sua corsa, la prospettiva è che ci sia un primo trimestre particolarmente brillante, anche perché sono stati resi noti i dati di produzione energetica da fonti idroelettrica che a febbraio hanno visto un notevole incremento, le forti piogge di febbraio e anche quelle di gennaio hanno alimentato gli impianti idroelettrici con un forte beneficio per A2A, e per questo gli analisti si aspettano un primo trimestre davvero brillante per la compagnia e per la società, e per questo ha guadagnato l'1%. Ancora fuori dal listino, tra l'altro chi va male oggi la Pop Milano, se vogliamo fare un punto anche su questo, perché stasera arriveranno i conti anche della Pop Milano, meno 1,80%, no? Sì, è stato un calo a sorpresa, perché la Popolare di Milano si è tenuta diciamo intorno alla parità o comunque leggermente debole per tutta la seduta, sul finale con la correzione complessiva dei mercati e anche qualche banca ha perso terreno, la Popolare di Milano è stata la peggiore del FTSE MIB, ha perso l'1,7%. Stiamo aspettando probabilmente nella tarda serata i conti e la presentazione delle linee guida del piano industriale, certamente insomma, il mercato si è posizionato. È vero che il titolo aveva guadagnato il 13% nell'ultima settimana. Ancora tra i titoli Jux meno 1,50, GTEC meno 1,5 come Intesa San Paolo, l'1,30 lo perde Pirelli ma anche Fiat, Mediolanum meno 1,1, Telecom meno 1% come Azimut. Tra i migliori e peggiori in assoluto rapidamente due titoli, Brunello Cucinelli che ho visto salire anche oggi e Acea. Brunello Cucinelli ha pubblicato i conti, ha guadagnato il 5%, i ricavi sono cresciuti del 15% nel 2013 e l'utile netto è migliorato dell'11%, chiudendo a quasi 30 milioni di euro di profitti netti nel 2013. Questo spiega la reazione del titolo. Per quanto riguarda Acea, degli ottimi conti, definiti soldi da più di una casa di investimento, un nuovo piano piuttosto ambizioso, ma il mercato ci ha creduto, il titolo sta ai massimi da 2009 e oggi è stato tra le migliori di Piazza Affari, peraltro in una giornata positiva per le utility in Italia come in tutta Europa. Grazie Andrea Fontana. Faccio notare che il peggior titolo è Monreef meno 5,30, Esprinet meno 4,5, Geox meno 4,20, miglior titolo in assoluto di nuovo Centrale del Latte di Torino più 22% e poi Screen Service Broadcast più 12,7%, Enervit più 15%. Allora, adesso andiamo col traffico e poi c'è il tema delle dichiarazioni di Padoan, del ministro Padoan e dell'Europa. Una cosa sui permessi, ancora. Vabbè, si possono fare tanti altri ragionamenti. C'è chi scrive perché non eliminiamo la retribuzione delle festività soppresse, che pure quelle sono festività soppresse. Altri dicono la legge 104 viene spesso abusata. Altri tornano sul tema delle malattie e dei medici di base. Io sto solo dicendo, qua non si può avere tutto. È chiaro che la cosa migliore è avere i permessi, come lei. Mi scrivono alcuni genitori, sono genitore anch'io, ma se io vado a parlare con l'insegnante di mio figlio ho usato il permesso, mica posso usare il certificato medico. Allora decidiamo che i permessi nel caso di obblighi scolastici del figlio vengano dati, porti un cedolino in cui sei stato a parlare con gli insegnanti. Un'altra mi scrive: ma se io devo portare mia figlia alla recita come faccio? Mica posso portare un certificato medico. Ho capito, ma qui il tema è: ok, ma io ti pago per portare tua figlia alla recita, oppure decidiamo che il permesso in quel caso non è remunerato e che comunque è un permesso ma non è remunerato, porti tua figlia alla recita, ma si figuri se non sono d'accordo, se si può fare, se questo non danneggia poi il lavoro, porti tua figlia alla recita, ma io non capisco perché devo pagarti il permesso di portare la figlia alla recita, preferisco che tu abbia più soldi in busta paga complessivamente. E poi voglio dire, quando dovrai portare tua figlia alla recita chiederai un permesso per motivi familiari che magari decidiamo che in quel caso non è retribuito, ma da qualche parte il problema dobbiamo prendere, anche perché riguarda il mondo del privato ma anche e soprattutto il mondo del pubblico impiego. O facciamo finta che nel pubblico impiego non ci sia secondo lavoro e che non ci siano troppi permessi di troppe malattie ingiustificate, insomma le vediamo solo noi queste cose, vabbè. Allora, adesso parliamo di Europa. No, vabbè. È ovvio che toccare il tema dei diritti acquisiti dei lavoratori dipendenti avrebbe suscitato un vespaio, però dico a chi scrive insulti, cose varie. Però poi sono magari gli stessi ascoltatori che sono d'accordo quando io critico, non so, il 10% di assenze ogni giorno per malattia alla CEA di Roma, all'Acqua di Roma, scusatemi. No, c'è cioè un dipendente ogni 10 ogni giorno è in malattia, e voglio dire, è veramente una moria. Lì però questi ascoltatori si arrabbiano giustamente. E poi mi spiegate quando diciamo che ormai ci sono due categorie di lavoratori, quelli che hanno tutti i diritti tutelati e quindi lavoratori dipendenti nel pubblico, in particolar modo visto che i licenziamenti nel pubblico praticamente non ci sono e anche nel privato, e poi c'è tutta una pletora di lavoratori le partite IVA che quelli diritti non ne hanno, cioè avranno delle figlie anche loro, avranno anche loro da portare qualcuno alla recita o stare lì, però se si assentano la pagano sulla loro pelle. Quello va bene, perché l'importante è non toccare i diritti di chi li ha. Vabbè. Allora, taglio del cuneo coperto da tagli di spesa, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha approfittato dell'usanza che si ha con un nuovo membro per esporre a grandi linee il programma del governo basato su uno sforzo di aggiustamento strutturale importante che ha un orizzonte di medio termine, cioè l'orizzonte che si pone il governo, che passa per una serie di riforme strutturali, passa per una riduzione del cuneo fiscale che sia coperto in modo permanente da tagli di spesa. Questa è una condizione molto importante che è ritenuta essenziale non solo dai colleghi dell'Eurogruppo ma in generale per garantire la sostenibilità di bilancio di operazioni di natura strutturale. E poi il Ministro dell'Economia ha continuato: bisogna cominciare subito, i risultati arriveranno in 2-3 anni e stiamo lavorando per evitare che si accumulino di nuovo ritardi nei pagamenti delle imprese da parte della pubblica amministrazione. Poi oggi ha detto anche occorre far sì che dopo la grande crisi l'Europa guardi più alla crescita. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Ecco Adriana, facci capire una cosa, visto che siamo in attesa, poi è inutile continuare con le speculazioni, sembra, ripeto, stando alle ultime indiscrezioni, che la maggior parte di questi 10 miliardi andranno sull'IRPEF. Però all'Europa interessa se IRPEF ha un'idea su IRPEF o IRAP, o interessa, come sembra dire Padoan, solo il tema delle coperture, cioè che qualunque misura venga presa non tocchi i saldi di bilancio? Sicuramente all'Europa interessa che qualsiasi tipo di manovra fiscale di riduzione del fisco sia coperta, questo per evitare naturalmente che l'Italia torni in deficit, visto che è uscita soltanto pochi mesi fa dalla procedura antideficit eccessivo. Ma l'Italia ha sempre suggerito di diminuire la pressione sul fiscale sul lavoro, tant'è vero che quando c'era stata la famosa polemica sull'IMU e sulle coperture, anche in quell'occasione la Commissione aveva ribadito che fosse meglio allentare appunto il peso sul costo del lavoro. Quindi direi IRAP per quello che riguarda Bruxelles. Però diciamo, il vero tema, ricordavi tu, sono le coperture. Da questo punto di vista però, Adriana, all'Ecofin Eurogruppo, abbiamo ascoltato Padoan ieri sera all'Eurogruppo, poi le dichiarazioni di oggi all'Ecofin, lui dice dobbiamo far sì che l'Europa guardi più alla crescita, ma io non ho visto ma mi è sfuggita per carità, qualche agenzia in questa direzione. Cioè è solo uno auspicio quello del Ministro dell'Economia o c'è qualcosa che si sta muovendo? No, direi che per il momento è solo un auspicio, nel senso che tutti vogliono più crescita, ma per ora la posizione ufficiale è sempre la stessa: bisogna fare le riforme strutturali per avere più crescita. Il problema è che per fare le riforme strutturali si possono decidere subito, ma i risultati si vedono tra qualche anno. Anche la famosa riforma Schröder, che è da tutti decantata, ci mise 5 anni per esplicare i suoi risultati, e quindi non si può immaginare che facendo le riforme strutturali immediatamente si possa avere un risultato sul piano della crescita, anche se dipende dalla riforma strutturale, perché se per esempio si cominciasse con la semplificazione legislativa, la sburocratizzazione, insomma rendendo la vita delle imprese un po' meno un incubo, certamente questo potrebbe essere una frustata di energia che non costa, ma che faciliterebbe la vita delle imprese e dunque diciamo la crescita e l'occupazione, perché poi gira rigira si deve sempre ripartire da lì, come lo stesso François Hollande ha detto qualche tempo fa quando ha cambiato linea e si è a sua volta spostato per le riforme. Ha detto: se non ci sono le aziende che producono, poi non c'è più niente da redistribuire, e quindi diciamo il lavoro per decreto è un bel sogno, ma non sono questi i fatti. Quindi anche per questo a maggior ragione ripeto IRAP, se probabilmente sarà IRPEF. Sì, a me non appassionano i derby, ripeto, oggi abbiamo suscitato un vespaio provando a immaginare come vi potrebbe essere un aumento della produttività se tutti i 10 miliardi dovessero andare sull'IRPEF, quindi nelle tasche dei lavoratori. Che cosa diciamo potrebbero chiedere le imprese per avere una produttività maggiore? E abbiamo, non dico gli insulti che sono arrivati, per aver detto che i permessi o altri permessi sindacali possono diventare o le festività soppresse, ma nel caso dei permessi, facoltativi non obbligatori nella maturazione. Io l'opinione l'ho espressa, molti di voi non sono d'accordo, altri sì. Alcuni ritengono che portare la figlia alla recita non debba essere un'attività retribuita. Io sono d'accordo, ti prendi un permesso non retribuito, ma i permessi adesso sono retribuiti. Oppure, e sicuramente non vai, diciamo, come se stessi lavorando. Non ho mai detto che il privato non licenzia, ho detto che il pubblico, diciamo, difficilmente licenzia, ha bloccato il turnover, ma non vi sono state crisi come nel mondo privato. E ho detto che comunque in questo modo chi mi insulta difende, probabilmente anche comprensibilmente, i suoi diritti. Faccio notare che c'è tutta un'altra parte del mondo che è fatto di partite IVA, di cocopro, di persone che i diritti non ce li hanno, e quindi che questa divergenza resiste. A mio avviso, aumentare la busta paga e magari rinunciare a qualche automatismo andando a lavorare solo quando è necessario potrebbe essere una soluzione. Grazie Adriana Ceretelli, da Sebastiano Barigione le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani per commentare il Consiglio dei Ministri dalle 17 in poi.